Nei mesi successivi la situazione peggiorò molto. Sembrava di vivere in un paese in guerra. Gli animi erano molto esaltati, specialmente tra le donne dell'opposizione che sfilavano lungo le strade picchiando sulle pentole in segno di protesta per il mancato approvvigionamento. Metà della popolazione faceva in modo di abbattere il governo e l'altra metà lo difendeva, senza che a nessuno restasse il tempo di occuparsi del lavoro. Una notte Alba si stupì al vedere le strade del centro buie e vuote. Non era stata raccolta l'immondizia per tutta la settimana e i cani randagi scavavano nei mucchi di rifiuti. I lampioni erano coperti di propaganda stampata che la pioggia dell'inverno aveva scolorito e su ogni spazio libero erano scritte le frasi di ogni fazione. Metà dei lampioni era stata presa a sassate e negli edifici non c'erano finestre illuminate. La luce proveniva da qualche falò triste, alimentato da giornali e assi intorno al quale si riscaldavano piccoli gruppi che montavano la guardia davanti al ministero, alle banche, agli uffici, dandosi il turno per impedire che le bande di estrema destra li prendessero d'assalto di notte. Alba vide un camioncino fermarsi di fronte a un edificio pubblico. Scesero molti giovani con caschi bianchi, barattoli di pittura e pennelli e ricoprirono le pareti di un colore bianco come base. Poi disegnarono grandi colombe multicolori, farfalle e fiori insanguinati, versi del poeta e inviti all'unità del popolo. Erano le brigate giovanili che credevano di salvare la rivoluzione con dei murales patriottici e volantini. Alba si avvicinò e indicò il murale che c'era dall'altra parte della strada. Era macchiato di pittura rossa. E vi stava scritta una sola parola, in caratteri enormi. Giacarta. Che cosa significa questo nome, compagni? Domandò. Non lo sappiamo, risposero. Nessuno sapeva perché l'opposizione pitturava quella parola asiatica sui muri. Mai avevano sentito parlare delle montagne di morti nelle strade di quella lontana città. Alba salì sulla sua bicicletta e pedalò verso casa. Da quando c'era il razionamento della benzina, e lo sciopero dei pubblici trasporti aveva dissotterrato dalla cantina il vecchio giocattolo della sua infanzia per potersi muovere. Avanzava pensando a Miguel e un oscuro presentimento le chiudeva la gola. Era da parecchio tempo che non andava a lezione e cominciava ad avere troppo tempo libero. I professori avevano proclamato uno sciopero indefinito e gli studenti si erano presi gli edifici della facoltà. Stufa di studiare il violoncello a casa sua, approfittava dei momenti in cui non ronzava con Miguel, passeggiava con Miguel o discuteva con Miguel, per andare all'ospedale della Misericordia ad aiutare suo zio Jaime e qualche altro medico che continuavano a esercitare, nonostante l'ordine del collegio medico di non lavorare per sabotare il governo. Era una fatica sovrumana. I corridoi erano pieni di pazienti che aspettavano per giorni interi di essere assistiti, come un gregge gemente. Gli infermieri non riuscivano a soddisfare le richieste. Jaime si addormentava col bisturi in mano, così occupato che spesso si dimenticava di mangiare. Dimagrì ed era molto emaciato. Faceva turni di 18 ore e quando si gettava sulla sua branda non riusciva a prendere sonno pensando agli ammalati che stavano aspettando e che non c'erano anestetici né siringhe né cotone e che se lui si fosse anche moltiplicato per 1.000 non sarebbe stato comunque sufficiente perché era come voler fermare un treno con la mano. Anche Amanda lavorava nell'ospedale come volontaria per stare vicino a Jaime e per tenersi occupata. Durante quelle giornate estenuanti, occupata a curare malati sconosciuti, aveva riacquistato la luce che la illuminava da dentro nella sua gioventù e per un certo tempo ebbe l'illusione di essere felice. Indossava un grembiule azzurro e scarpe di gomma. Ma a Jaime pareva che quando gli passava vicino tintinnassero le sue conterie di un tempo. Si sentiva in compagnia e avrebbe desiderato amarla. Il presidente appariva in televisione quasi tutte le sere per denunciare la lotta senza quartiere dell'opposizione. Era molto stanco e spesso gli si incrinava la voce. Dissero che era ubriaco e che passava le notti in un'orgia di mulatte portate per via aerea per rascaldargli le ossa. Avvisò che i camionisti in sciopero percepivano 50 dollari al giorno dall'estero per mantenere il paese bloccato. Risposero che gli mandavano gelati di cocco e armi sovietiche nelle valigie diplomatiche. Disse che i suoi nemici complottavano con i militari per organizzare un colpo di Stato perché preferivano vedere la democrazia morta piuttosto che governata da lui. Lo accusarono di inventare panzane da paranoico e di rubare le opere del Museo Nazionale per metterle nella camera da letto della sua amante. Avvertì con anticipo che la destra era armata e decisa a vendere la patria all'imperialismo. E gli risposero che aveva la dispensa piena di petti di pollo mentre il popolo faceva la coda per il collo e le ali di quello stesso uccello. Il giorno che Luisa Mora suonò il campanello della grande casa dell'angolo, il senatore Trueba era nella sua biblioteca a fare conti. Era l'ultima delle sorelle Mora ancora rimasta al mondo, ridotta alle dimensioni di un angelo errante e completamente lucido, in pieno possesso della sua indistruttibile energia spirituale. Trueba non l'aveva più vista dopo la morte di Clara, ma la riconobbe dalla voce che era sempre squillante come un flauto magico e dal profumo di violetta silvestre che il tempo aveva reso più dolce, ma che era ancora percepibile a distanza. Entrando nella stanza, portò con sé la presenza alata di Clara, che rimase fluttuante nell'aria davanti agli occhi innamorati del marito che non la vedeva da molti giorni. Vengo ad annunciarle disgrazie, Esteban, disse Luisa Mora dopo essersi seduta su una poltrona. Ah, cara Luisa, ne ho già avute fin troppe, sospirò lui. Luisa raccontò quanto aveva scoperto nei pianeti, dovette spiegare il metodo scientifico che aveva usato per vincere la pragmatica resistenza del senatore, disse che aveva trascorso gli ultimi 10 mesi a studiare la carta astrale di ogni persona importante del governo e dell'opposizione. Compreso lo stesso Trueba, il confronto delle carte rifletteva che in quel preciso momento storico sarebbero successi fatti di sangue, di dolore e di morte. Non ho il minimo dubbio, Esteban, concluse. Si avvicinano tempi atroci. Ci saranno così tanti morti che non si potrà contarli. Lei sarà dalla parte dei vincitori, ma il trionfo le porterà solo sofferenza e solitudine. Esteban Trueba si sentì a disagio davanti a quella pitonessa insolita che sovvertiva la pace della sua biblioteca e disturbava il suo fegato con vaneggiamenti astrologici, ma non ebbe il coraggio di accomiatarla per via di Clara, che stava guardando con la coda dell'occhio dal suo angolo. Ma non sono venuta a disturbarla con notizie che sfuggano al suo controllo, Esteban. Sono venuta a parlare con sua nipote Alba perché ho un messaggio per lei da parte di sua nonna. Il senatore chiamò Alba. La giovane non aveva più visto Luisa Mora da quando aveva 7 anni, ma si ricordava perfettamente di lei. L'abbracciò con delicatezza per non spezzare il suo fragile scheletro d'avorio e aspirò con trepidazione una boccata di quel profumo inconfondibile. Sono venuta a dirti di stare attenta, figliola, disse Luisa Mora dopo che si fu asciugata il pianto per l'emozione. La morte ti sta alle calcagna. Tua nonna Clara ti protegge dall'aldilà e mi ha incaricata di dirti che gli spiriti protettori sono inefficaci nelle catastrofi più grosse. Sarebbe bene che tu facessi un viaggio, che te ne andassi dall'altra parte del mare dove saresti in salvo. A questo punto della conversazione, il senatore Trueba aveva perso la pazienza ed era certo di trovarsi di fronte a una vecchia pazza. 10 mesi e 11 giorni più tardi avrebbe ricordato la profezia di Luisa Mora mentre si portavano via Alba durante il coprifuoco. 13. Il terrore. Il giorno del golpe militare spuntò con un sole splendente, poco comune nella timida primavera che iniziava. Jaime aveva lavorato quasi tutta la notte e alle 7 del mattino aveva in corpo solo 2 ore di sonno. Lo svegliò lo squillo del telefono e infine una segretaria con la voce leggermente alterata gli tolse di dosso ogni torpore. Lo chiamavano dal palazzo per informarlo che doveva presentarsi nell'ufficio del compagno presidente il più presto possibile. No, il compagno presidente non era malato. No, non sapeva quello che stava succedendo. Lei aveva l'ordine di chiamare tutti i medici della presidenza. Jaime si vestì come un sonnambulo e prese la sua automobile, contento che la sua professione gli conferisse il diritto a una quota settimanale di benzina, perché altrimenti avrebbe dovuto raggiungere il centro in bicicletta. Arrivò al palazzo alle 8 e si stupì di vedere la piazza vuota e un forte distaccamento di soldati ai portoni della sede del governo, tutti vestiti con indumenti da battaglia, caschi e armamento da guerra. Jaime parcheggiò l'automobile nella piazza solitaria, senza badare ai gesti che gli facevano i soldati perché non si fermasse. Scese e subito lo circondarono puntandogli contro le armi. «Cosa succede, compagni? Siamo in guerra con i cinesi?» sorrise Jaime. «Vada via, non può fermarsi qui, il traffico è interrotto!» ordinò un ufficiale. «Mi spiace, ma mi hanno chiamato dalla presidenza», aggiunse Jaime, mostrando i suoi documenti. «Sono un medico!» Lo accompagnarono sino alle pesanti porte di legno del palazzo dove un gruppo di carabinieri montava la guardia. Lo lasciarono entrare. Dentro l'edificio regnava un'agitazione da naufragio. Gli impiegati correvano per le scale come topi storditi e la guardia privata del presidente stava ammassando i mobili contro le finestre e distribuendo pistole tra i più vicini. Il presidente gli andò incontro. Si era infilato un casco da combattimento che appariva incongruente con i suoi leggeri abiti sportivi e le sue scarpe italiane. Allora Jaime capì che qualcosa di grave stava accadendo. «Si è sollevata la marina, dottore», spiegò brevemente. «È arrivato il momento di lottare». Jaime prese il telefono e chiamò Alba per dirle che non si muovesse da casa e per chiederle di avvisare Amanda. Non parlò mai più con lei, perché gli eventi si susseguirono vertiginosamente. Durante l'ora successiva arrivarono alcuni ministri e dirigenti politici del governo e cominciarono i negoziati telefonici con gli insorti per misurare l'ampiezza della rivolta e cercare una soluzione pacifica. Ma alle 9:30 del mattino le unità armate del paese erano al comando dei militari golpisti. Nelle caserme era cominciata la purga di quanti restavano fedeli alla Costituzione. Il generale dei carabinieri ordinò alla guardia del palazzo di uscire perché anche la polizia aveva appena accettato il golpe. «Potete andarvene, compagni, ma lasciate le armi», disse il presidente. I carabinieri erano confusi e vergognosi, ma l'ordine del generale era deciso e nessuno osò sfidare lo sguardo del capo dello Stato. Deposero le armi nel cortile e uscirono in fila a testa bassa. Sulla soglia uno si voltò. «Io mi fermo con lei, compagno presidente», disse. A metà mattina fu chiaro che la situazione non si sarebbe aggiustata col dialogo e cominciarono ad andarsene quasi tutti. Rimasero solo gli amici più vicini e la guardia privata. Le figlie del presidente furono costrette dal padre a uscire. Dovettero tirarle fuori con la forza e dalla strada si potevano udire le loro grida che lo chiamavano. Dentro l'edificio rimasero circa 30 persone trincerate nel salone del secondo piano, tra cui si trovava Jaime. Credeva di vivere un incubo. Si sedette su una poltrona di velluto rosso, con una pistola in mano, guardandola come un idiota. Non sapeva usarla. Gli sembrò che il tempo trascorresse molto lentamente. Sul suo orologio erano passate solo 3 ore dopo quel brutto sogno. Udì la voce del presidente che parlava per radio al paese. Era il suo commiato. «Mi rivolgo a quelli che saranno perseguitati per dir loro che io non rinuncerò, pagherò con la mia vita la lealtà del popolo. Starò sempre vicino a voi. Ho fiducia nella patria e nel suo destino. Altri uomini supereranno questo momento e più presto che tardi si apriranno i grandi viali attraverso i quali passerà l'uomo e la donna libera per costruire una società migliore. Viva il popolo, viva i lavoratori e le lavoratrici. Queste saranno le mie ultime parole. Ho la certezza che il mio sacrificio non sarà vano». Il cielo cominciò a rannuvolarsi. Si udivano alcuni spari isolati e lontani. In quel momento il presidente stava parlando al telefono col capo dei rivoltosi che gli offrì un aereo militare per uscire dal paese con tutta la sua famiglia, ma lui non era disposto ad andare in esilio, in alcun posto lontano dove avrebbe dovuto passare il resto della sua vita, vegetando con altri comandanti domi che erano usciti dalla loro patria in un'ora indebita. «Vi siete sbagliati sul mio conto, traditori! Qui mi ha messo il popolo e ne uscirò soltanto morto!» rispose serenamente. Allora si udì il ruggito degli aeroplani e cominciò il bombardamento. Jaime si gettò a terra con gli altri, senza riuscire a credere a quanto stava vivendo, perché fino al giorno prima era convinto che nel suo paese non succedesse mai nulla e che persino i militari rispettassero la legge. Solo il presidente rimase in piedi, si avvicinò a una finestra con un bazooka tra le braccia e sparò verso i carri armati in strada. Jaime si trascinò fino a lui e lo afferrò ai polpacci per costringerlo a chinarsi, ma l'altro gli mollò una parolaccia e rimase in piedi. 15 minuti dopo, tutto l'edificio bruciava e dentro non si poteva respirare per le bombe e il fumo. Jaime si muoveva a carponi tra i mobili rotti e i pezzi di soffitto che gli cadevano intorno come una pioggia mortifera, cercando di prestare aiuto ai feriti, ma poteva solo offrire consolazione e chiudere gli occhi ai morti. In un'improvvisa pausa della sparatoria, il presidente riunì i sopravvissuti e disse loro di andarsene perché non voleva martiri né sacrifici inutili. Tutti avevano una famiglia e dovevano portare a termine un importante compito a venire. Chiederò una tregua finché possiate uscire, aggiunse. Ma nessuno se ne andò. Qualcuno tremava, ma tutti erano in apparente possesso della loro dignità. Il bombardamento fu breve, ma ridusse il palazzo in una rovina. Alle 2 del pomeriggio, l'incendio aveva divorato gli antichi saloni che erano serviti fin dai tempi coloniali e rimaneva solo un pugno di uomini intorno al presidente. I militari entrarono nell'edificio e occuparono tutto quanto restava del piano terra. Al di sopra del fragore, udirono la voce isterica di un ufficiale che ordinava loro di arrendersi e di scendere in fila indiana con le braccia in alto. Il presidente strinse la mano a ciascuno. Io scenderò per ultimo, disse. Non lo rividero mai più. Jaime scese con gli altri. Su ogni scalino dell'ampia scala di pietra c'erano soldati appostati. Sembravano impazziti. Prendevano a pedate, colpivano col calcio del fucile chi scendeva con un odio nuovo, recentemente inventato, che era sbocciato in loro nel giro di poche ore. Tutti facevano esplodere le loro armi sopra la testa degli arresi. Jaime ricevette un colpo nel ventre che lo piegò in due e quando riuscì a rialzarsi aveva gli occhi pieni di lacrime e i pantaloni tiepidi di escrementi. Continuarono a colpirli fino in strada e lì ordinarono loro di gettarsi i bocconi in terra. Li calpestarono, li insultarono finché non ebbero esaurito gli insulti spagnolo e allora fecero un segnale a un carro armato. I prigionieri lo udirono avvicinarsi mentre l'asfalto tremava sotto il suo peso di pachiderma inarrestabile. Fate largo che passeremo col carro armato sopra questi coglioni, gridò il colonnello. Jaime osservò da terra e credette di riconoscerlo perché gli ricordava un ragazzo col quale giocava alle Tre Marie quando lui era giovane. Il carro passò ansando a 10 centimetri dalla sua testa, tra le sghignazzate dei soldati e l'ululato delle sirene dei pompieri. Di lontano si sentiva il rumore degli aerei da guerra. Dopo un bel po' separarono in gruppi i prigionieri secondo la loro colpa e Jaime lo portarono al ministro della difesa, che era stato trasformato in caserma. Lo costrinsero ad avanzare, chino, come se fosse stato in una trincea. Lo guidarono attraverso una grande sala piena di uomini nudi, legate in file di 10, con le mani avvinte dietro la schiena, così malmenati che qualcuno non poteva reggersi in piedi e il sangue scorreva a rivoli sul marmo del pavimento. Condussero Jaime nella stanza delle caldaie, dove c'erano altre persone in piedi contro la parete, sorvegliate da un soldato livido che andava avanti e indietro puntando contro di loro il mitra. Lì rimase a lungo, immobile, in piedi, reggendosi come un sonnambulo, senza riuscire a capire quello che stava succedendo, tormentato dalle grida che si sentivano attraverso il muro. Notò che il soldato lo osservava. Subito abbassò l'arma e gli si avvicinò. Si sieda e riposi un po', dottore, ma se io l'avviso, si tiri su immediatamente, disse in un sussurro, passandogli una sigaretta accesa. Lei ha operato mia madre e le ha salvato la vita. Jaime non fumava, ma assaporò quella sigaretta aspirando lentamente. Il suo orologio era rotto, ma dalla fame e dalla sete calcolò che doveva già essere notte. Era così stanco e a disagio nei suoi pantaloni macchiati che non si chiedeva cosa gli sarebbe successo. Cominciava a ciondolargli la testa quando il soldato gli si avvicinò. Si alzi, dottore, gli sussurrò. Vengono a prenderla. Buona fortuna. Un istante dopo entrarono due uomini. Gli misero le manette e lo condussero da un ufficiale che aveva l'incarico di interrogare i prigionieri. Jaime l'aveva visto qualche volta in compagnia del presidente. «Sappiamo che lei non ha nulla a che vedere con tutto questo, dottore», disse. «Vogliamo solo che compaia in televisione e dica che il presidente era ubriaco e che si è suicidato. Dopo la lascerò andare a casa». «Faccia quella dichiarazione lei stesso, non contate su di me, ruffiani», rispose Jaime. Lo tennero fermo per le braccia. Il primo colpo lo raggiunse allo stomaco. Poi lo sollevarono, lo distesero sul tavolo e sentì che gli toglievano gli indumenti. Parecchio tempo dopo lo fecero uscire dal Ministero della Difesa privo di sensi. Aveva cominciato a piovere e la freschezza dell'acqua e dell'aria lo rianimò. Si svegliò quando lo issarono su un mezzo dell'esercito e lo depositarono sul sedile posteriore. Attraverso il vetro osservò la notte. Quando il veicolo si mise in moto, poté vedere le strade vuote e gli edifici imbandierati. Capì che i nemici avevano vinto e probabilmente pensò a Miguel. Il mezzo si fermò nel cortile di un reggimento e lì lo fecero scendere. C'erano altri prigionieri, ma ridotti come lui. Gli legarono i piedi e le mani con filo spinato e lo gettarono bocconi nelle mangiatoie. Lì Jaime e gli altri trascorsero 2 giorni senza acqua e senza mangiare, marcendo dei loro stessi escrementi, nel loro sangue, nel loro terrore, al termine dei quali li trasportarono tutti in camion fin nelle vicinanze dell'aeroporto. In un campo di rifiuti li fucilarono, distesi per terra perché non si reggevano in piedi, e poi fecero esplodere i corpi con la dinamite. Lo spavento dell'esplosione e il fetore delle spoglie fluttuò a lungo nell'aria. Nella grande casa dell'angolo, il senatore Trueba aprì una bottiglia di champagne francese per festeggiare il crollo del regime contro cui aveva lottato tanto ferocemente, senza sospettare che in quello stesso momento stavano bruciando i testicoli a suo figlio Jaime con una sigaretta d'importazione. Il vecchio mise la bandiera davanti all'entrata della casa e non uscì a ballare in strada perché era zoppo e perché c'era il coprifuoco, ma la voglia non gli mancava, come annunciò giubilante a sua figlia e a sua nipote. Intanto Alba, appiccicata al telefono, cercava di ottenere notizie della gente che la preoccupava: Miguel, Pedro III, lo zio Jaime, Amanda, Sebastian Gomez e tanti altri. «Ora la pagheranno!» esclamò il senatore Trueba sollevando la coppa. Alba gliela tolse di mano con uno strattone e la gettò contro la parete, mandandola in frantumi. Blanca, che non aveva mai avuto il coraggio di tenere testa a suo padre, sorrise di nascosto. «Non festeggeremo la morte del presidente, né di nessun altro, nonno», disse Alba. Nelle belle case del quartiere alto stapparono le bottiglie che erano rimaste in attesa per 3 anni e brindarono al nuovo ordine. Sui quartieri operai volarono per tutta la notte gli elicotteri, ronzando come mosche dell'altro mondo. Molto tardi, quasi all'alba, squillò il telefono e Alba, che non era andata a letto, corse a rispondere. Sollevata, udì la voce di Miguel. «È arrivato il momento, amore mio. Non cercarmi e non aspettarmi. Ti amo», disse. «Miguel, voglio venire con te», singhiozzò Alba. «Non parlare a nessuno di me, Alba. Non cercare di vedere gli amici. Distruggi le agende, le carte, tutto quello che può condurre a me. Ti amerò sempre, ricordatelo, amore mio», disse Miguel e interruppe la comunicazione. Il coprifuoco durò 2 giorni. Per Alba furono un'eternità. Le radio trasmettevano ininterrottamente inni di guerra e la televisione mostrava solo paesaggi del territorio nazionale e cartoni animati. Più volte al giorno apparivano sugli schermi i 4 generali della giunta seduti tra lo scudo e la bandiera per promulgare i loro bandi. Erano i nuovi eroi della patria. Malgrado l'ordine di sparare contro chiunque si affacciasse fuori di casa, il senatore Trueba attraversò la strada per andare a far festa a casa di un vicino. La gazzarra della riunione non richiamò l'attenzione delle pattuglie che circolavano per strada, perché quello era un quartiere dove non si aspettavano di trovare opposizione. Blanca annunciò che aveva il peggior mal di testa della sua vita e si chiuse nella sua camera. Durante la notte Alba la sentì girare in cucina e immaginò che la fame fosse stata più forte del mal di testa. Lei passò 2 giorni rigirandosi per casa in stato di disperazione, controllando i libri del tunnel di Jaime e la sua scrivania per distruggere quanto considerava compromettente. Le sembrava di commettere un sacrilegio. Era sicura che quando suo zio fosse tornato sarebbe andato su tutte le furie e non avrebbe più avuto fiducia in lei. Distrusse anche le agende dove erano segnati i numeri di telefono degli amici, le sue più preziose lettere d'amore, persino le foto di Miguel. La servitù di casa, indifferente e annoiata, si intrattenne durante il coprifuoco a preparare polpette, meno la cuoca che piangeva senza mai smettere e aspettava con ansia il momento di raggiungere suo marito col quale non aveva potuto mettersi in contatto. Quando venne tolto per qualche ora il divieto di uscire affinché la popolazione avesse la possibilità di comprare dei viveri, Blanca constatò meravigliata che i negozi erano zeppi di quei prodotti che per 3 anni erano scarseggiati e che sembravano essere spuntati nelle vetrine per opera di magia. Vide cataste di polli di allevamento e poté comprare tutto quello che voleva, nonostante costasse il triplo perché era stata decretata la libertà di prezzo. Notò che molte persone osservavano i polli con curiosità, come se non li avessero mai visti, ma che pochi li compravano perché non potevano pagare. 3 giorni dopo, l'odore della carne putrefatta appestava i negozi della città. I soldati pattugliavano nervosamente le strade, applauditi da molta gente che aveva desiderato il crollo del governo. Taluni, resi spavaldi dalla violenza di quei giorni, arrestavano gli uomini con i capelli lunghi o con la barba, segni inequivocabili del loro spirito ribelle, e fermavano in strada le donne che portavano pantaloni e glieli tagliavano a forbiciate perché si sentivano responsabili di imporre l'ordine, la morale, la decenza. Le nuove autorità dissero che non avevano nulla a che vedere con quelle azioni, non avevano mai dato ordine di tagliare barbe o pantaloni. Probabilmente si trattava di comunisti travestiti da soldati per screditare le forze armate e renderle odiose agli occhi della cittadinanza, che non erano proibite le barbe e i pantaloni, ma certamente preferivano che gli uomini fossero sbarbati e con i capelli corti e le donne con le gonne. Corse voce che il presidente fosse morto e nessuno credette alla versione ufficiale che si fosse suicidato.